Milano che pensa, la Milano sociale, la Milano del lavoro, la Milano delle botteghe, non ce ne frega un cazzo della stupidità, delle vetrine. Dobbiamo cominciare a ricominciare a pensare. Addio alla Caruso! Fascismo non è una parola avulsa della nostra realtà, una realtà fatta di luci, di pezzi di silicone, una realtà fatta di costrizioni, di autocostrizioni, fatta persino da pensionati autocostruiti a farsi fuori una pensione con gratta e vinci, perché se non ci pensa il colpo di culo, chi è che ci pensa? E allora questo mondo che produce la sua fazione non si riesce a suefare nella libertà. Per noi cultura significa questo, significa pensare, significa esserci. Quando quei carabinieri che ci stanno davanti dovevano ancora nascere, la Calusca e il Conchetta denunciavano già in questo quartiere i cinema a luci rosse. Quando ancora si pensava, e si pensava più sull'oggi, e non si buttava a merda sul 68, quando ancora esisteva una classe operaia che ragionava, che sapeva che cos'era il suo interesse, questo quartiere era ben vivo. È dentro questo quartiere, e per questo motivo c'è anche nato il Conchetta, e per questo motivo la Calusca, che fu anche centro di raccolta del sapere operaio, negli anni 70 si trasferì nel Conchetta. Il Conchetta non è mai stato una fortezza, al Conchetta non c'era nessuno con la puzza sotto il naso, al Conchetta si faceva veramente cultura, non la cultura con la K. Al Conchetta si imparava anche a vivere, al Conchetta si faceva da mangiare per gli operai, al Conchetta, proprio perché questa realtà è una delle più intossicate che esistano, nella pianura padana si faceva anche il mercato biologico. Al Conchetta c'era sì, come diceva Primo, una cultura della sopravvivenza, e noi al Conchetta siamo sopravvissuti bene, abbiamo fatto i nostri libri, abbiamo conservato la memoria, tante volte ce la siamo tenuta lì per noi come qualcosa che brilla nella notte, in questa notte, in questa notte finta fatta di neon, dove tutto deve essere bello e non si deve sentire la puzza. Noi invece la puzza la sentiamo, sentiamo puzza del fascismo, perché prendere manganelli, caschi, camionette, camion e cercare di portare via un archivio che è degno di essere paragonato a quello della Fondazione Feltrinelli in via Manzoni. Ma noi, che non siamo la Feltrinelli, non abbiamo aperto la succursale all'euromercato, ma siamo rimasti qua a brillare da soli in un quartiere che cambia, un quartiere che ha sostituito i cinema luci rosse con le vetrine di scarpe, le vetrine di maglioncini, le vetrine di birindelli, di tutto quello che volete voi, tranne della realtà. Perché parlare della realtà è la cosa che fa più paura. Non bisogna parlare della realtà, non bisogna dire fascismo, non bisogna ricordare che Fini aveva il braccio teso prima di diventare quel grande statista, presidente della Camera. E noi siamo qua invece a dire che sono dei fascisti, perché vogliono chiudere noi, no? Mica vogliono chiudere, che so, la Banca Popolare di Milano, oppure quel cantiere proprio che in Garibaldi sta trasformando un'isola di cultura in una porcheria, in una colata di cemento. E che dire poi alla signora Moratti di quelle 5.000 autovetture da ospitarsi, nei sotterranei più reconditi del nuovo quartiere dell'Expo, quartiere che già adesso, ripetiamo, 10.000 al metro quadro, 10.000 euro al metro quadro. Questa è la loro cultura. Noi non siamo stupidi, non siamo neanche violenti. Alla violenza loro opponiamo la nostra violenza culturale, che è semplicemente la verità, quella verità che oggi ci fa paragonare la Shoah a qualcosa di metafisico. Belle tutte queste mostre, tutte queste sfilate, tutto questo bel parlare di quello che è stata la Shoah, quando siamo i primi confettori di emarginazione, quando siamo noi a incarcerare i figli di quel terzo mondo che il liberismo reganiano, tacceriano, e tutti quelli che sono venuti dopo, fino a quell'Alan Crispan che ha teorizzato la liberalità più totale, il mercato senza regole. Sono loro la mancanza di regole, sono loro che non sanno che cosa c'è ancora di umano. Siamo noi umani su questa piazza oggi, siamo fortissimi, siamo in tanti, noi non abbiamo paura, noi siamo qui per dire che pensiamo, siamo noi le sentinelle di Milano, noi coi giovani siamo qui per dire Milano, dopo le grandi offese del piano regolatore dei regioni, quello che il fascismo ha distrutto, la Milano che è finita con le sue sciostre, con i suoi navigli, con il suo essere, la Milano-Venezia del Nord, grazie al piano regolatore fascista. Oggi, 60 anni dopo, diventeremo una Milano ancora peggiore. Diventeremo la Milano della parente dei petrolieri, la Milano degli sindaci fascisti, la Milano, e ripetiamo, che non sanno nemmeno da che parte si scrive Ferlinghetti. Vedi il filo lungo. No, era un po' lunga, però meritava come apertura. La voce di sottofondo al corteo che c'è stato durante l'ultimo sgombero, quindi parliamo del 2009. Quindi fu il primo corteo, perché poi ce ne fu un altro successivo a febbraio. La voce di sottofondo è di Gianfranco, un magazziniere del San Paolo, l'ospedale, che non ha potuto esserci qua in questa serata, quindi manda a lui anche dei saluti. Niente, quindi l'apertura è per presentare il libro di Mauro De Agostini, il presente, che faceva parte anche lui del vecchio collettivo che nel 1976, esattamente proprio il 26 luglio, occupò questo stabile insieme ai lavoratori della sanità in maggioranza, ai lavoratori del comune, dell'aeroporto, di qualche industria chimica, compagni anarchici e studenti, e occuparono quindi questo stabile che prima originariamente, poi vedremo anche delle immagini, era di tre piani, con un altro piano qui sulla mia destra che è stato abbattuto. Quindi è un libro che è quindi fatto da chi ci ha vissuto proprio all'interno di questo posto. Tant'è vero che Mauro ha sempre lavorato nel collettivo coordinamento di lotta per la casa, che è stato proprio creato in questo spazio, che però poi girava per le varie sedi occupate di Milano, e quindi per arrivare anche poi fino a in via Correggio. Quindi questo libro parla la storia dei primi 10 anni, dal 75 al 85, in cui Mauro è stato protagonista e dice la sua sul centro sociale. Poi vabbè, poi dopo si apriranno gli interventi, magari ci sarò anch'io che farò qualcosa, perché per quanto riguarda la sanità, questo posto ha espresso tante di quelle cose che voi non immaginate neanche, che molte cose nessuno sa, che magari qualcosa verrà messo fuori questa sera qui. È un libro che lì è in vendita questa sera a 10 euro, il costo di copertina è 15 solo per questa sera, e poi ci sarà la possibilità di poterlo acquistare in libreria. Quindi non dico altro, passo subito la parola a Mauro. Bene, grazie Pino. Io sono particolarmente contento di essere qui, poi in una data che è così significativa, perché appunto il 26 luglio del 76 venne occupato questo stabile e fu poi l'inizio di tutta una serie di occupazioni. Purtroppo stasera ho anche un elemento doloroso, che è la morte una settimana fa del compagno Paolo Finzi, della redazione di A Rivista Anarchica. Ora, Rivista Anarchica, lo voglio ricordare, fu una rivista che diede molto spazio a questa occupazione, tanto è vero, e non è un caso, perché l'organizzatore materiale di questa occupazione era un compagno che si chiama Antonio e che abitava dall'altro lato del Naviglio, un lavoratore dell'aeroporto, un attivista sindacale, e appunto apparteneva a quest'area di A Rivista Anarchica. Quindi subito dopo l'occupazione, nel primo numero che uscì, A Rivista Anarchica dedicò una intervista molto ampia agli occupanti, che ricostruisce proprio le prime fasi di questa occupazione. Quindi questa è un'intervista che poi è stata più volte ripubblicata, è presente anche su questo libro, ma è presente d'altronde anche sul sito di Cox 18, no? Ora pensate che solo 10 giorni prima di morire avevo avuto un ultimo scambio proprio di lettere, di mail con Paolo Finzi, perché insomma lui era sempre occupatissimo, e dicevo: ma senti, viene una di queste presentazioni? E lui mi aveva detto: sì, beh, verrò volentieri alla prossima. Quindi, come dire, che era questa. Quindi io veramente speravo di averlo qua, invece poi è successa la tragedia. Quindi vabbè. Dopo questa nota dolorosa, che però insomma era anche doverosa per ricordare un compagno che tanto ha fatto, cerco di entrare un pochettino nel vivo di questo libro. Allora, un primo concetto vorrei sottolineare: quello che ho voluto scrivere non vuole essere un libro di memorie, un libro di ricordi di militanti magari in disarmo o in servizio permanente effettivo, e neanche un come eravamo della generazione degli anni 70, perché se fosse solo questo sarebbe un'operazione culturalmente di respiro sicuramente molto corto, no? Questo libro nel suo piccolo ha l'ambizione di cercare di essere uno strumento di lotta politica. Perché è uno strumento di lotta politica? Perché la storia è campo di lotta, è inutile dire, la storia è uno strumento di lotta potentissimo. Come dice giustamente Orwell, la storia è un palinsesto che ogni mattina viene raschiato per essere riscritto da capo, no? I padroni del momento lo riscrivono, e quindi quelli che sono gli anni 70 sono stati completamente erasi, no? Ed è stata scritta una storia, come dire, completamente diversa, molto riduttiva, per cui praticamente c'è solo il terrorismo e sembra che non sia successo nient'altro. Ora, uno mi dirà, soprattutto chi è più giovane, ma insomma gli anni 70 sono la preistoria, no? Soprattutto per i giovani di oggi, tanti ne vedo che per fortuna ci sono anche attivi, già la caduta del muro di Berlino è come dire, storia antica, per cui figuriamoci gli anni 70. Però non è così, nel senso che gli anni 70 sono importanti per il nostro paese, no? Per l'Italia, nel senso che se noi riflettiamo, tutto quanto di positivo nel nostro paese c'è, è stato conquistato in due grandi stagioni di lotta, che sono uno la resistenza e poi quel decennio di lotta dal 68 alla fine degli anni 70. Qualche esempio, ma ce ne sono tantissimi, pensiamo al Servizio Sanitario Nazionale, che non a caso fanno di tutto per smantellarlo, però in qualche modo ce l'abbiamo, gli Stati Uniti non ce l'hanno, no? Con tutta la loro potenza. E il Servizio Sanitario Nazionale lo conquista negli anni 70, Pensiamo al diritto all'interruzione della gravidanza, anche questo minaccia tutto il resto, è una conquista degli anni 70. I diritti di cui godono i lavoratori nelle fabbriche, anche questi forse più teorici che reali, però quello che c'è è tutta una conquista degli anni 70. Come? Sì, la legge Basaglia, insomma ce ne sono tantissime, no? Il divorzio, l'accesso libero all'università che prima era incanalato a seconda della scuola superiore che facevi, dovevi andare obbligatoriamente a quel tal corso oppure non ci potevi andare affatto, cioè tante altre cose. Ora, quindi appunto è chiaro che questo è un aspetto. Un altro aspetto interessante, per cui scusatemi, mi sono un po' perso. Per cui è importante come dire, recuperare la consapevolezza di questi anni, quindi riscrivere una storia, e questa chiaramente è una storia in piccolo perché parla di un microcosmo militante, ma insomma poi entreremo nei particolari, secondo me è comunque significativo per capire un po' il periodo in generale. È importante riscrivere questa storia, no? Ora, anche perché, come ho detto, è stato tutto cancellato, nel senso che praticamente persino fenomeni epocali come sono il femminismo, no? Praticamente rispetto agli storici più in voga del momento sembra essere una cosa insignificante rispetto alle vicende di qualche banda armata. Cioè è un'assurdità, cioè la storia di metà del genere umano, no? È confinata nella cosiddetta storia di genere, no? Come se fosse la storia dei francobolli o la storia della marina svizzera, no? Ma e invece qua, qui quella tal formazione armata, cosa ha fatto, chi ci stava dietro, i russi, gli americani, i marziani, tutto quanto, no? Ma certo c'è stato anche la lotta armata, per l'amor del cielo, non dico di no, ma non era mica tutto lì. Cioè la ricchezza progettuale degli anni 70 è stato qualcosa di clamoroso e deve essere riscoperto. Questo è un primo punto. Un secondo punto che vorrei sottolineare è questo. Cioè nel momento in cui tu vai a riscoprire quegli anni, io qui ho cercato di fare un'operazione nel senso di riscoprirli utilizzando documenti d'epoca, no? Nel senso che essenzialmente ho preso volantini, documenti, articoli di giornale, eccetera. Poi dopo ci sono anche testimonianze di protagonisti, qualcuno è presente qui stasera, però quelli sono più che altro, come dire, per tappare dei buchi laddove non riuscivo ad avere abbastanza informazioni, no? Ora, proprio ricostruendo col materiale d'epoca, molto del quale è inedito, tu vedi un'altra cosa molto interessante, cioè che tutte quelle conquiste che oggi siamo qua a difenderle strenuamente, no, come se fossero l'ultima barricata della civiltà, per certi versi lo sono, all'epoca venivano vissute come dei compromessi al ribasso, nel senso che quello che si voleva era molto molto di più, appunto da qui il titolo di questo libro, abbattere le mura del cielo, non so, quello che si voleva fare era tutto, no? Vogliamo tutto, no? Vogliamo cambiare drasticamente la società, vogliamo cambiare completamente il sistema dei valori, quindi anche la legge sull'interruzione della gravidanza, ma non era quella che voleva il movimento delle donne. Il movimento delle donne voleva la depenalizzazione dell'aborto, insomma all'epoca si rischiavano sanzioni pesanti per l'aborto, no? E che quindi ciascuna donna potesse liberamente decidere il proprio corpo, non che lo Stato intervenisse a legiferare, puoi farlo, non puoi farlo, tot mesi, questo, ci sono queste condizioni, non ci sono queste altre, e così tutto il resto, no? Quindi occorre riprendere e recuperare questa profondità storica anche per capire come siamo, no? Perché solo attraverso la conoscenza del passato c'è la possibilità di progettare un futuro diverso. Quindi nel suo piccolo questo libro si propone di fare un'operazione del genere. Poi chiaramente l'argomento di questo libro nello specifico è, e qui c'è il sottotitolo, Storie di anarchiche, anarchici e occupazioni, Milano 1975-1985, no? Quindi il focus è su che cosa? Su un settore del movimento anarchico, è un settore particolare del movimento anarchico che dà vita a una serie di occupazioni di case, no? Quindi sostanzialmente la storia parte qui da un pochettino da quella che è l'occupazione di via Conchetta e Torricelli, che avviene nel 76, per arrivare fino allo sgombero di via Correggio, che è dell'84, con un po' di premesse prima e un po' di analisi dopo di quello che è successo nell'immediato, no? Ecco, però pur quindi i documenti, quello che, di cui si parla, sono essenzialmente evidentemente queste vicende. Però io ritengo, e poi chiaramente chi lo leggerà giudicherà se l'operazione è riuscita o meno, insomma questo chiaramente non spetta mai all'autore dirlo, che questo microcosmo che cerco di ricostruire, di delineare, sia rappresentativo di quello che era un movimento dell'epoca, che, cioè, se questo avveniva in una serie di piccole realtà, ecco, questo moltiplicato per 1000, per 10.000, avveniva in tutta Milano, in tutta Italia, no? Quindi insomma sono anche cose che devono essere recuperate. Altro fattore importante che vorrei sottolineare, cioè la partizione cronologica, nel senso che gli studi che per lo più vengono fatti ancora fino adesso sono essenzialmente studi che, belli o brutti che siano, ma che vertono sul decennio 1968 fine degli anni 70, no? Quindi il cosiddetto decennio rivoluzionario. Dopodiché cosa è successo, cosa non è successo, non si sa più niente, non è finito tutto. Quindi qui si tenta anche un'operazione che è difficile, che mi sembra abbastanza innovativa, mi pare che ben pochi ci abbiano provato prima, quello di cercare di analizzare una transizione, cioè un passaggio da quelli che sono gli anni appunto dell'assalto al cielo a quelli che sono gli anni del riflusso, che sono i primi anni 80. Anni 80 che comunque insomma sono anni per certi versi vivaci, no? Ma che poi vedono, non solo in Italia ma un pochettino in tutto il mondo, chiaramente non più un come dire, un attacco, un'offensiva della classe operaia, no? Ma piuttosto, come dire, una ritirata, no? Abbiamo il thatcherismo, abbiamo Reagan e non a caso anche qui abbiamo la famosa, i licenziamenti alla Fiat, no? Con tutto quello che ne è seguito. Quindi appunto il passaggio degli anni 80 è un passaggio che introduce una situazione completamente nuova, e quindi analizzare il passaggio da qui a lì evidentemente mi sembrava importante. Entriamo nello specifico del contenuto di questo libro. Allora, a parte chiaramente alcuni capitoli o paragrafi di inquadramento generale che servono per capire cosa stava succedendo nel resto di Milano o nel resto del mondo, no? E intanto che ci sono gli eventi di cui si sta narrando, vengono ricostruite le vicende di queste occupazioni, no? Quindi con una serie di documenti di analisi, ad esempio documenti dei vari comitati di occupazione, sia qui di via Conchetta come anche di via Torricelli, esperienze particolari anche di altre realtà, come ad esempio il nucleo anarchico di Grattosoglio, qui c'è una testimonianza piuttosto ampia, come anche dei documenti di questo gruppo, documenti dei gruppi studenteschi, un importante documento del collettivo Donne Libertarie che ha operato qui in via Conchetta e poi per trasferirsi poi in via Torricelli, perché i locali erano più ampi, appunto c'è stata l'occupazione di via Conchetta alla fine di luglio, lì abbiamo la data precisa, fortunatamente proprio perché è riportata su questo articolo di A Rivista Anarchica di cui parlavo prima. Per via Torricelli ci ricordiamo più o meno, no, che l'occupazione fu agli inizi di settembre, ma fino a questo momento non sono saltati fuori documenti che fotografino con chiarezza quando è stato. Appunto, c'è un documento interessante che è, si intitola Donna Azione, Dannazione, che è il testo di un audiovisivo, era ancora il tempo, no, in cui si facevano le diapositive con la cassetta registrata vicino, e l'audiovisivo si è perso, almeno chiaramente è andato perso, però fortunatamente abbiamo il testo, no? ce l'aveva una compagna, Mariella, che quindi ringrazio molte compagne, molti compagni che mi hanno dato materiali. Io ho lavorato molto sia sul mio archivio personale, sia su quello di Monna soprattutto, che ha molto più materiale di me, e poi tanti compagni mi hanno dato materiale. Questo è veramente un documento interessante che verte sul problema dell'aborto, che in quel momento chiaramente era sentitissimo, no? Perché c'era tutta questa battaglia per la depenalizzazione dell'aborto. Ci sono documenti del movimento degli studenti, come ho detto, sempre qui si parla sempre di gruppi anarchici, perché chiaramente questa occupazione, come quella di Gatto Riccelli, è nata come, con una chiara ispirazione libertaria. Le lotte contro l'aumento dell'ATM del 1979, che fu una lotta clamorosa, no? Venivano occupate le stazioni della metropolitana per lasciare entrare la gente senza pagare il biglietto, eccetera, no? Le lotte degli ospedalieri, che sono uno dei grandi momenti di quest'epoca. Ecco, una cosa che ho potuto vedere un pochettino anche attraverso questi documenti è che c'è un pochettino un luogo comune per certi versi, nel senso che molti interpretano, non so, come se le grandi lotte operaie sono del 68-69, il movimento del 77 è visto essenzialmente come il movimento dei non garantiti, no? Quindi sembrano due cose completamente diverse. La realtà è diversa, nel senso che nella seconda metà degli anni 70 c'è un movimento operaio fortissimo che conduce ancora lotte di notevolissimo peso, e in più, oltre alle lotte che ci sono nelle fabbriche, noi vediamo comparire lotte nei servizi pubblici, quindi soprattutto nel settore degli ospedalieri, anche qui con una fortissima impronta libertaria, ma anche nel settore degli enti locali, in altri settori. Però indubbiamente quello degli ospedalieri fu la testa d'ariete di questo movimento. E qui proprio abbiamo ci sono i documenti anche relativi a un presidio che è stato fatto davanti all'ospedale, la clinica Ronzoni, che si trovava in via Conca del Naviglio, no? Adesso poi è stata accorpata al San Paolo, e poi San Paolo è stato a sua volta accorpato, insomma, dove erano stati licenziati due compagni, no? Due dipendenti, tra cui Pino, no? Qui presente, per cui venne condotto in pieno inverno un presidio davanti a questa clinica, con un freddo che ne sarebbe bastata la metà, no? Ma insomma fu una lotta significativa che poi si estese anche ad altri ospedali, che comunque ottenne il risultato di ottenere la riassunzione di queste due persone licenziate. Ci sono l'esperienza importantissima dell'ambulatorio Pinelli. Questo è un ambulatorio autogestito che operò prima qui in Conchetta e poi successivamente in via Torricelli per diversi anni, qui con questo soprattutto con testimonianze di Stefania, che essenzialmente è la compagna che ha, come dire, organizzato questa esperienza, perché lì su quello c'erano pochi documenti. Ci sono, certo, c'è il tema della lotta armata, di cui evidentemente non si poteva fare a meno. Ci sono alcune lettere dal carcere, sia di Anacleto, ci sono, che conoscerà penso la maggior parte di voi, tre lettere dal carcere, di cui una inedita, e due erano già state pubblicate, ma insomma ormai nessuno le trova più, no? Chiaramente è una lettera di Libero di Gaetano, un altro compagno qui dell'area Conchetta e Torricelli, questa del tutto inedita. C'è l'esperienza del libero scambio, un'altra esperienza che è stata fatta qua. Dopodiché si passa anche a parlare delle vicende di via Correggio, questo però soprattutto a partire dagli anni 80. Perché? Perché diciamo che mentre Conchetta e Torricelli il focus, come abbiamo detto qui, è su anarchici occupazioni, mentre Conchetta e Torricelli nascono con un'impronta chiaramente anarchica, al contrario via Correggio, che è stata occupata prima di un anno prima di via Conchetta, era un'occupazione realizzata dal Comitato di Quartiere Magenta, quindi un'organizzazione di quelli che erano all'epoca i gruppi della sinistra extraparlamentare. Solo progressivamente via Correggio ha assunto una connotazione libertaria, tant'è vero che poi vi si trovavano anche vari organismi, no? Tra cui uno che ricordo particolarmente è il coordinamento di lotta per la casa, che ha condotto diverse battaglie e di cui qui si parla. C'era la rivista Collegamenti Vobli, che all'epoca aveva non si chiamava Collegamenti Vobli, in quell'epoca si chiamava Vobli. Poi ovviamente c'è l'esperienza del virus, no? L'arrivo dei punk, questa nuova linfa, no? Che si inserisce, chiaramente è un elemento di totale novità, quindi devo dire che si è fusa in modo complessivamente armonioso, no? Con quella che era la realtà di via Correggio, che era una realtà molto molto decisamente molto aperta, oltre a disporre chiaramente di spazi estremamente ampi. E quindi via via si arriva poi a quelle che sono le vicende di via Correggio, fino allo sgombero e alle situazioni immediatamente successive, parlando chiaramente delle vicende legate alla repressione, che chiaramente gli anni del riflusso, no, sono poi caratterizzati da due elementi terrificanti, che sono da una parte la diffusione a tappeto dell'eroina, no, che ha ammazzato tanta di quella gente che è un numero impressionante, e dall'altra parte la repressione, cioè lì praticamente è chiaro che prendendo spunto poi dalla lotta armata, ma chiaramente lo Stato praticamente ha colpito tutti quanti, e per cui poi che uno, cioè, c'entrasse o non c'entrasse, chiaramente però era facilissimo finire in galera, al punto tale che a un certo punto avevano messo in galera anche praticamente tutti gli avvocati di movimento, per cui anche quando si è trattato di far difendere certi compagni si è dovuto ricorrere in quel caso a un avvocato civilista, no? Perché non c'era più un penalista a piede libero di fiducia, e ovviamente, perché se poi ti prendevi l'avvocato d'ufficio che ti convinceva a confessare, no? Magari quello che non avevi fatto o quello che avevano fatto gli altri soprattutto, allora quello lo trovavi facilmente. Quindi è chiaro che questi sono due elementi che hanno contribuito notevolmente a spezzare il movimento. Dopodiché, vabbè, c'è una parte finale che dà una indicazione, ma insomma molto limitata, su quello che è avvenuto praticamente dopo l'85. Ecco, questo è in termini molto generali il contenuto del libro. Poi insomma, come introduzione non dico neanche molto di più, ovviamente qua ci sono interventi o domande, insomma ben vengano, così vediamo di fare un po' un dibattito. Mi sposto così. Ecco, qui c'è qualche foto d'epoca, tra l'altro. Beh, anche queste sono riprese dalla rivista Anarchica, sì. Vabbè, adesso vediamo un po' di foto dell'epoca, facendo vedere anche qualche iniziativa di lotta degli ospedalieri dell'epoca, che avevano messo in ginocchio tutta la sanità in Lombardia. quindi parliamo dell'anno 1976. Facciamo un po' qualche riferimento per orientarci, così per vedere un po' cosa era successo in quell'anno. Quindi nel 76 ci fu appunto anche Parco Lambro, la festa del proletariato giovanile, credo che fosse l'ultima, dopo i casini che ci furono. Subito dopo ci fu la questione della diossina di Seveso, questo il 10 luglio, credo, sì, quando da una fabbrica si fu sprigionato del gas tossico che colpì intere zone della Brianza, portando poi dopo a delle chiusure del territorio, militarizzazione, eccetera. Quindi tutto questo succedeva in quegli anni. E sempre nel 76 c'è stata la lotta degli ospedalieri, che è iniziata in primavera con l'applicazione del mansionario, che sarebbe quella forma di lotta che vuole dire di applicare alla lettera le mansioni che ti vengono stabilite per contratto. Quindi una lotta che è durata parecchi mesi, che piegò più o meno le varie amministrazioni della Cagaranda e anche di altri ospedali. Tant'è che si arrivò poi in autunno, sempre agosto o settembre, con un irrigidimento di questa formula di lotta, che portò a varie giornate di mobilitazione, di scioperi. Tant'è che poi la controparte fece poi intervenire l'esercito all'interno degli ospedali. Ecco, questa è una notizia che magari molta gente non lo sa: tutti si fermano ai blindati, ai carri armati a Bologna nel 77 per frenare il movimento di allora. Però nessuno sa e nessuno ha speso nulla di queste parole quando l'esercito, il genio militare dell'esercito, intervenne in vari ospedali della Cagaranda. Dico questa distinzione Cagaranda perché all'inizio la Cagaranda rappresentava i quattro maggiori ospedali milanesi, che erano il San Carlo, il Policlinico, il Niguarda e Sesto San Giovanni. Quindi l'unica amministrazione che si chiamava Cagaranda e che comprendeva tutti questi ospedali. Oggi non è più così, perché le varie leggi regionali vanno sempre a riordinare quello che l'altro aveva fatto in precedenza e quindi fa la sua legge regionale. Oggi non è più così, ci sono le aziende ospedaliere, quindi improntate al profitto, e quindi quello che succedeva allora è impossibile ripetersi adesso, perché sono state modificate talmente tanto i dispositivi di legge che adesso è impossibile proprio quasi muovere un dito. Però a quell'epoca invece gli ospedali erano in completa paralisi, le giornate di sciopero erano sempre all'ordine del giorno, perché a quei tempi non c'era la legge sulla regolamentazione dello sciopero, quindi la 146 del 90 non esisteva allora, perché parliamo del 76, quindi ci si comportava come per il privato, quindi si poteva dichiarare sciopero dal giorno all'altro, e non perché lo voleva il sindacato, ma bastava l'assemblea generale dei lavoratori per far sì che scattasse lo sciopero e quindi andare avanti in questo sistema qui. Ecco. Quello che c'è da dire è che il movimento di lotta degli ospedalieri è stato completamente al di fuori delle logiche sindacali, tant'è vero che gli slogan che si usavano loro era: siamo sempre più incazzati contro governo, padroni e sindacato, perché il sindacato ne ha combinati di tutti i colori. E anche in questo caso le lotte degli ospedalieri furono condannate dal noto esponente sindacalista della CGIL, Luciano Lama, che ebbe da dire che questi scioperi non si dovevano fare e quindi si dovevano chiudere le sedi di questi ribelli ultra, come dice, come li chiamava la stampa, quindi dipendenti ultra, che bloccavano le corsie, che bloccavano gli uffici tecnici, che bloccavano le cucine. Ecco, in questo contesto qua, poi dopo l'omone ospedalieri c'è stata la contestazione alla Scala, sempre il 76, anche quello fu un episodio rilevante nel movimento milanese soprattutto, e che poi diede origine poi alle rituali scadenze di manifestazione alla Scala che si sono succedute, ma senza più il fervore del primo anno, troppi telefonini. Quindi iniziamo a vedere un po' di queste foto. Questa è la casa, quindi è il balcone che ci sarebbe sopra il portone d'ingresso, quindi questo è il portone d'ingresso. Infatti, e questo alla destra c'è il ristorante con la tenda che era il Genovese, che poi quando fu trasferito nel ristorante qui di fianco venne poi esteso l'occupazione con gente che arrivava poi dal virus e da altre situazioni. Ecco, questa è la via, si vede un po' il ristorante Genovese, questo è il centro sociale, l'ingresso della libreria, questo è l'interno, questa è la panetteria, perché il centro sociale era dove c'è adesso la libreria, era un panificio, infatti ci si vede il forno. E qui all'interno ci sono alcuni esponenti degli ospedali, qualcuno del virus, qualcuno di Conchetto, con Mario Taxi, Joe Cocker, eccetera, eccetera, Lucone, Danielino. Questo è sempre l'interno del panificio di Conchetta, si vede un Gianni Santinelli tutto scuro, con i capelli, Marco Mussi sulla destra ed altre persone, ci sono anch'io un po' dietro, nascosto. Ecco, questa è sempre la libreria, come era prima della ristrutturazione. Questo è l'interno del cortile. Vedete qui sulla sinistra c'è una costruzione che sarebbe l'edera, che però adesso non c'è più. Questo è lo sgombero, il primo sgombero che ci fu. Il palazzo si vede ancora tutto intero, le vetrine sono ancora tutte aperte sulla strada. E quindi questo fu gennaio 89, sì. Invece questa è la sede del Torricelli. Questa era la sede dove c'era prima il dentista, ma a quei tempi c'era un negozio di arte cuoio, Geronimo si chiamava, ci lavoravo anch'io. Vabbè, questa è un po' più recente. Ecco, questa è una delle aperture dei primi cortei regionali che ci furono allora, sempre 76. È un periodo che arrivò dal 76 fino al 78 ed è stato un periodo che possiamo, diciamo, paragonarlo a quello che è stato per la fabbrica del 68, solo che mentre sugli operai e sull'operaio massa tutti ne hanno detto di tutto e hanno scritto di tutto, sul movimento degli ospedalieri diciamo non esiste quasi nulla in merito, diciamo è stato un movimento che non è stato abbastanza studiato, valutato, perché appunto non esiste nulla. Eppure, come diceva Mauro, le più grosse conquiste che oggi molti si fregano le mani dicendo oh come siamo belli, come abbiamo delle leggi progressiste, risalgono appunto tutte al 1978. Il 78 è la riapprovazione della riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Il 78 è l'approvazione sempre della legge 194 sull'aborto, il 78 è l'anno sempre dell'approvazione della legge della 180 o legge Basaglia, quella sull'eliminazione dei manicomi. Tutte leggi oggi attualmente in pericolo, quindi qui ci sono alcuni articoli di allora, di settembre 76. dimissioni sempre incasinate. Sempre 76 militari entrano negli ospedali. Paralisi alla Cagranda. Questo è San Carlo Borromeo in uno dei suoi cortei interni. Policlinico. Guarda. Principessa Yolanda, che sarebbe Ronzoni, Principessa Yolanda e San Paolo, perché poi ci fu l'unificazione per la costruzione del San Paolo e quindi ci fu l'unificazione di questi due istituti privati, Ronzoni e Principessa Yolanda, che diedero poi vita all'ospedale San Paolo. Un manifesto dell'epoca. Ci fu l'occupazione della RAI, perché naturalmente la repressione poi iniziò a farsi vivo e quindi a mettere notizie di un certo tipo, come siamo abituati oggi, sui lavoratori di allora, che per smentire tutto questo clima occupammo la RAI. Qui invece fu un'iniziativa che fece abbastanza discutere, perché mancavano infermieri, dei disoccupati organizzati, si mettono in camice e vanno a lavorare all'interno dell'ospedale, stanno lì parecchie ore a lavorare, e quindi si sono presentati così ogni giorno a lavorare, dicendo ci assumete. Qui il Lama che condanna gli scioperi, siamo sempre 76. Situazione drammatica, l'assemblea di Guardia dice comunque no all'accordo, e queste sono un po' il nostro striscione della Principessa Yolanda. Ecco, qui si innesta il mio discorso più o meno personale, perché in questo periodo mi vengono minacciate il licenziamento da gennaio del 77. Motivo di questi licenziamenti sono due più che altri. Uno, perché ho partecipato a una contromanifestazione contro il sindacato a Riccione, che era un'assemblea dedicata al settore sanità per l'approvazione del contratto nazionale, e quindi da Milano scendemmo in 6 pullman organizzati di lavoratori della sanità per contestare questo accordo, perché ci doveva essere un'assemblea nazionale di tutti i delegati che poi dovevano approvare il contratto nazionale. Mannaggia la miseria. Sei un manager ormai, eh? No, non sono mai. Mi fa perdere. E quindi sto facendo un po'. Mi ha fatto perdere il segno anche a me. Vabbè, comunque questo era 6 pullman che arrivarono a Riccione, dove ci fu questa assemblea nazionale, e però successero dei casini importanti, dove mi accusarono di essere fra quelli che avevano minacciato il servizio d'ordine del PC di allora Emiliano, che era Riccione, quindi un motivo di questo licenziamento era questo, e l'altro motivo era invece per aver contestato un banchetto all'interno dell'ospedale dove esponevano degli strisci, dei visoni, delle pellicce proprio di fianco alla camera operatoria per la vendita ai lavoratori interessati. Ma racconta come era gestito appunto il Ronzoni, il Principessa Yolanda. Ecco, vabbè, quello. Beh, l'assunzione. Come fanno adesso? Beh, diciamo che non è cambiato nulla da quello che è la situazione di allora a quella che è la situazione di adesso, perché il personale manca sempre. Il personale scarseggiava allora, come scarseggia anche adesso. Ecco, il problema è che anche il precariato era uguale come era uguale adesso. Allora si chiamava un rapporto di tipo avventizio, invece adesso si chiama lavoratore precario, jobbat, eccetera, eccetera. E quindi, unito al fatto poi che chi acquistava queste pellicce all'interno dell'ospedale si vedeva poi il servizio amministrativo o a cura del nostro personale dipendente che faceva poi le trattenute, eccetera, eccetera. Quindi questi due motivi portarono alle dimissioni, al mio non rinnovo del contratto, che dovevano partire da giugno, dal mese di gennaio. Ecco, qui dopo una consultazione con il coordinamento che si riuniva qui in Conchetta fu deciso di iniziare una lotta contro questo licenziamento installando un presidio permanente davanti all'ospedale Ronzoni, che è quello in Conca del Naviglio, dove adesso si è trasferita la TS, e quindi fu un presidio che durò parecchi mesi. Ci fu uno sciopero anche delle affame del sottoscritto, poi ci furono anche delle manifestazioni, diciamo, di quartiere, anche di una certa rilevanza, qualche migliaio di persone. Quindi poi alla fine, dopo un paio di mesi, ci furono le riassunzioni dei due dipendenti, quindi da lì è partito poi il mio calvario, nel senso che non ho più smesso di lavorare all'ospedale, quindi tuttora sono lì 44. Anche troppo bene. Troppo bene. Ecco, quindi questa è un po' una manifestazione di allora. Qui siamo sotto la Camera del Lavoro. Questo è sempre il nostro striscione. Quindi era proprio una lotta generalizzata, quella della manifestazione sia regionale che nazionale. Questa è sempre quella regionale, che comunque avevano i suoi numeri dignitosi, qui si parla anche di 50.000 persone. Invece il coordinamento nazionale riusciva anche nelle sue poche manifestazioni che ci sono state a mettere in piedi nel 78 anche uno sciopero ad oltranza con 100.000 persone a Roma. Quindi questo è sempre nel 1978, proprio in periodo di sequestro Moro. Quindi se si aspettava che da qualche parte la repressione sarebbe arrivata, invece fra gli ospedali si era al massimo, al culmine dell'espressione, nel senso che partì nel mese di maggio, no, nel mese di gennaio del 78, una mozione che fu votata da numerosi ospedali regionali e nazionali, che diedero vita a uno sciopero a tempo indeterminato, roba che non esiste più adesso, perché non si può fare, perché la legge lo vieta, però è uno sciopero che durò in alcune situazioni anche la bellezza di 30-35 giorni consecutivi. Per esempio ci furono proprio ai tempi le classifiche di chi aveva raggiunto le giornate più alte, si classificò il Careggi con 34 giorni di scioperi continuativi, seguito dal Policlinico di Roma, Policlinico di Milano e tutti gli altri ospedali a rotazione. Anche il nostro piccolino, come la principessa Yolanda, arrivammo a 29 giorni di sciopero consecutivi, che poi ci occorsero quasi 2 anni per recuperare tutte le trattenute di questi scioperi, perché poi facciamo un'avvertenza per avere una rateizzazione di queste trattenute dello sciopero. Però insignificante il fatto che appunto proprio in periodo di sequestro Moro che partì una lotta così grossa, che poi diede anche un aumento contrattuale, si parlò allora di 20.000 lire di aumento contrattuale al mese, contro le centinaia di quelle da assorbire come giornate di sciopero. Comunque, questo è sempre l'ospedale Yolanda, preghiera degli infermieri. Ecco qui Seveso, come mi dicevo prima, una zona che fu militarizzata, recintata. manicomio occupato. Dico, qui sono i nostri primi, le prime iniziative di lotta all'ospedale San Paolo, questo in magliettina con i fiorellini, braccio corte, è Michele Colucci, famoso boss, fratello di Francesco Colucci, onorevole del Partito Socialista. Ci sono qui sulla seconda foto a destra, oltre a lui ci sono vari sindacalisti nazionali, Brambati, Tommasini, eccetera. Perché appunto questo ospedale, che era costruito dal 64 in poi, non apriva mai, si è aspettato poi nel 1980 per aprirlo. Queste qua sono invece la principessa Yolanda e il giardino. Questo sono io nella tenda dello sciopero della fame. Chi l'ha detto? Ci sono le prove? Questa è una delle varie occupazioni. Ecco, questo è l'ingresso dell'ospedale Ronzoni con dipendenti dell'ospedale, e qui sulle scale a destra Anacleto, che tra l'altro anche lui era un dipendente ospedaliero all'inizio. Molta gente fra i compagni lavorava nella sanità, tipo Monna lavorava a Policlinico, Anacleto lavorava a Niguarda, la madre di Selina lavorava anche lei a Niguarda. C'è molta gente che lavorava nel pubblico impiego, non sono durati tanti come me, però. Iniziativa del pronto soccorso vuoto, che non veniva mai usato, decidemmo di occuparlo. Questa invece è un'altra iniziativa che mettemmo in piedi proprio durante lo sgombero di Conchetta, del primo sgombero. Questo è sempre Anacleto. In alto sono ufficio tecnico, presidente del CRAL oggi, eccetera eccetera. Questo è capo del personale che poi si suicidò durante Tangentopoli. Ecco, questa è una lotta che vi dicevo prima, che riprendeva uno slogan quasi da stadio, che era quello: la trema, la terra trema, il cielo scura, o tanti infermieri non hanno paura. Cioè, cosa vuol dire? Che dopo tanti anni di continue lamentele, quelli del San Paolo decisero un giorno di mettiamoci in massa, e quindi fu un'operazione bellissima. Più di 87 infermieri furono, diedero le loro dimissioni tutti lo stesso giorno, tutti col preavviso di fare le ferie nello stesso momento, e quindi ciò voleva dire la chiusura di 6 reparti in meno, senza proprio fare nessun tipo di giornata di sciopero. Quindi solo il semplice fatto di scrivere le dimissioni tutti nello stesso giorno. Questa è un'assemblea del personale interno. Questa è la Croce Rossa, che esisteva sempre in Principessa Yolanda, che era un istituto a parte che prima gestiva la Principessa Yolanda, però poi dopo, con l'istituto legislativo nuovo, tutto passò alle USL. Questo è 1978-79, anche io quando facevo il corso di infermiera alla Croce Rossa. Questo sempre foto d'epoca, Famagosta, lo supermercato. Cortei interni. Capite, sì? Vabbè, comunque poi dopo il licenziamento rientrò, dopo 3 mesi, e quindi partimmo per punizione mi trasferirono in Principessa di Orlando pensando di farmi un dispiacere, ma invece era un reparto più, un ospedale più combattivo rispetto alla Ronzoni, perché alla Ronzoni aveva sede la presidenza, la segreteria, direzione amministrativa, direzione sanitaria, e quindi invece in Principessa di Orlando c'erano solo i vari sottoposti, e quindi si respirava meglio, si stava meglio ed erano anche più combattivi. Questo invece è l'acquario, quando fu occupato l'acquario da parte del centro sociale Conchetta, che dopo il primo sgombero, avendo trovato poi ospitalità in giro e visto che i tempi si dilatavano, decisero di, per fare pressione, di occupare l'acquario a Porta Genova. Anche noi partimmo lì per quell'iniziativa dei licenziamenti che dicevo prima, e quindi questo è uno striscione che era sopra l'acquario che dava solidarietà agli infermieri. Questa è un'altra iniziativa provocatoria che abbiamo messo in piedi, che però poteva anche finire male, nel senso che è fatta proprio in un'aula di trattative con l'amministrazione, dove noi avevamo preparato tutto il materiale sotto i banco, e quando è entrato la Fornero, non quella delle pensioni ma un'altra dirigente del San Carlo, che per toglierci dalle palle aveva deciso di non denunciare l'USI per associazione sovversiva usandolo al 270 bis, solo perché nello statuto noi dicevamo che volevamo l'abolizione dello Stato delle cose presenti, e quindi secondo la controparte noi eravamo violenti e dovevamo essere condannati, e noi per tutta risposta facemmo questa manifestazione contro tutti i dirigenti che erano lì presenti e che si spaventarono a morte, e che poi finì bene, perché poi uscendo sul corridoio per fortuna non c'erano le guardie giurate, che perché si erano armate lì succedeva un fine mondo. Questa è anche questa una foto vecchia, questa è una roba sui diritti di Rogito, una roba assurda direte voi, però i diritti di Rogito sono quelle commissioni che l'ospedale applica sulle varie ditte che partecipano agli appalti, quindi chi vince l'appalto, chi ha predisposto poi l'esecuzione e la messa in opera di queste cose, applicano i diritti di Rogito, che sono fior di soldi per i vari dirigenti. Noi dicemmo no, non li vogliamo, al limite li date a tutti, e li tolsero. Ecco, questo è il primo sciopero contro la guerra che ci fu nel 91, con il nostro striscione, che fu un casino portarlo avanti, perché guardate, è due volte e mezza la nostra altezza, quindi è un casino da portare in giro, che però fece il suo dovere anche all'aeroporto di Malpensa, dove fu esposta, dove anche tante altre iniziative. Qui, i due sindacalisti. Vi riconoscete qua qualcuno? Beh, c'è Giordano, Maurone, Bacchettone. Paolo. Che bello! Arrivo. Questo è l'orso di Via Gola, che adesso non c'è più. Ecco perché è legato anche alla questione Dax, perché Dax, quando fu ammazzato, poi venne trasportato all'ospedale San Paolo e lì è successo quello che penso tutti sappiate, con caccia all'uomo, pestaggi all'interno del pronto soccorso. Pipitone, Marco Caccabo. qui, dopo la questione Dax ci furono i vari presidi in giro. Questa è una mostra che facciamo noi come coordinamento sanità di Milano e provincia. In pratica gli unici a aver preso posizione su questi fatti, Daria, ecco, qui è l'esposizione della mostra che fu pubblicizzata, vabbè, qui un episodio di quei pestaggi al San Paolo. Ecco, qui è la sede dell'USI vecchia, quella in Viale Bligny come era prima, perché appunto noi come occupammo Conchetta, poi il movimento degli ospedalieri fece sì che Conchetta per noi fosse piccolina e quindi ci trasferimmo in Torricelli in un locale tutto nostro dove adesso attualmente c'è il Tattoo Shop. Quindi prima eravamo noi come solo sanità. Poi dopo tutte le altre lotte di missione di massa, prendendo lo spunto delle varie occupazioni che ci furono in seguito allo sgombero di Conchetta, che ce ne furono parecchie dopo, occupammo anche noi la sede di Viale Bligny 22, che è questa qui all'ultimo piano. Al secondo piano, dove ci sono impalcature, invece c'era lo Squattiti, un altro centro sociale. Invece questo è l'abbattimento della sede che ci fu, l'ho ripresa tutta. Questa qui. Questa è un'assemblea generale dove votano tutti in massa. Questo sono pure io, però non me lo faccio vedere. Basta. Quale? Ah, quella di San Carlo. Sì, metti, dai. Vabbè, gli ospedali, basta. Non ho già più voglia di parlare, magari se qualcuno c'ha certo voglia. È da dire su questo argomento che l'USI sta preparando dell'ospedale San Paolo, San Carlo, sta preparando un volume relativo alle loro lotte, no? Quindi che solo San Paolo, che però insomma direi che ce n'è già parecchio, no? Ecco, qui avete avuto una piccola idea, per cui si spera non in tempi diciamo troppo lunghi di vedere anche questa testimonianza, che sarà sicuramente interessante. L'audio di chi avete sentito prima all'inizio va in pensione anche lui il prossimo mese, quindi avrà più tempo per scrivere, quindi ci sarà allora. Ok, ne chiediamo adesso qualche altro intervento oppure domande, insomma, a seconda di come vi sembra, insomma, rispetto a quanto è stato detto fino ad ora. Però è in vendita laggiù alla mia destra, in questo caso lo ricordo per chi fosse arrivato dopo, qui oggi viene venduta a 10 euro, ma poi dopo raddoppierà o triplicherà il prezzo, quindi vi conviene scherzo, comunque insomma vi conviene acquistarlo prima possibile. Se volete potete anche usare il microfono. Thank you. the bullets fly, oh, they're taking toll. If you feel bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes. You'd better. Radio Popolare 20:28. Avevamo iniziato e credo che alcuni funzionari. State seguendo la conferenza stampa di denuncia del San Carlo. Ecco Monti che parla. Studio sulle piante organiche, sulle nuove piante organiche, sul potenziamento della radiologia, sulla palazzina degli uffici, sugli accessi, problemi che andate a vedere sono contenuti nella piattaforma. Qual è il momento storico in cui sono avvenuti i fatti che denunceremo? Siamo nel 79-80, era finito un ciclo di lotte che ho all'interno dell'amministrazione, quelle che noi chiamiamo oggi le lotte intestine. Le lotte intestine sugli appalti e le lotte intestine soprattutto sui primariati. Siete attenti, credo che adesso, prima di entrare, veramente avvincente il racconto di come funziona l'ospedale. Noi siamo pronti a fare il diavolo a quattro se questi obiettivi, elenco e non mi fermo su questo, ci è stato tolto il finanziamento sull'informatica, si dice che si danno i 30 posti letto di neurochirurgia all'ospedale di Niguarda, è la questione del dipartimento della rete ambulatoriale. Fuori ci sono i progetti, abbiamo lavorato 8 mesi, l'assessore non ha detto di sì. Ancora una volta la logica, sottolineiamo, è quella di accontentare i baroni, di accontentare qualche primario e non invece di dare le giuste risposte razionali, programmate e pianificate all'utenza. L'altra questione è la lotta alla corruzione. Non a caso abbiamo fatto questo striscione va letto come un'interpretazione, come una provocazione. Allora, la lotta alla corruzione è uno degli obiettivi di questo Consiglio dei Delegati e dispiace rilevare che quando invece questo Consiglio dei Delegati viene a presentare qui dei risultati, come la piattaforma per riqualificare l'ospedale dal punto di vista strumentale, strutturale e adesso quella che stiamo facendo in termini riorganizzativi, secondo me da parte degli organi di informazione vale e bisogna dirlo, c'è poca attenzione. Cioè c'è poca attenzione al fatto che comunque nello spazio della sanità italiana ci sia un ospedale che cerca di andare controcorrente. E su questa, è proprio su questa questione della riqualificazione del San Carlo che è partita poi questa indagine che noi abbiamo fatto. È quello che oggi predomina nel pubblico impiego, predomina quindi, è lo strumento della corruzione, che è quello di fare tutte le operazioni all'interno del quadro legislativo, il più possibile evidentemente, e per non farle capire qual è il filone vero che ci sta dentro, bisogna frammentarle in 1000 pezzi e se non basta e se non passano, bisogna frammentarle in 2000 pezzi. Per cui noi abbiamo fatto un puzzle, come dicevo all'inizio, e cioè in 8 mesi abbiamo preso pezzettino per pezzettino, l'abbiamo messo insieme e viene fuori questa immagine deleteria di rapporti tra politici corrotti e baroni corrotti. Allora, i concorsi funzionano, vado via veloce su questo, in questa maniera. Cioè si basano sui titoli di carriera e si basano sui titoli acquisiti nelle prove d'esame. Nelle prove d'esame il potere ce l'ha soprattutto il cattedratico, poi anche il primario ospedaliero, ma il primario ospedaliero è storicamente subalterno al cattedratico. Allora se qualcuno vuole, se si vuole fare un concorso personalizzato, mirato ad un candidato, fondamentale è trovare il cattedratico che sia d'accordo. Allora le menti perverse, secondo me, della corruzione hanno inventato un sistema ancora più sofisticato, hanno utilizzato le nuove tecnologie. Sentite, cioè sentite il trucco delle palline calde, delle palline fredde e delle palline sporche con la marmellata. Allora come funziona questo trucco? Tutti che seguono con attenzione, anche i medici. Nel preparare prima dell'estrazione, mettere una pallina in freezer, una pallina in un forno e una che rimarrà sempre la terza perché non ha variazioni termiche, sporcata leggermente con un po' di marmellata, in maniera che uno va dentro, tira fuori prima quella fredda, poi quella calda e poi per ultima quella con la marmellata. Come si fa quindi a dimostrare questo? Chiedetelo però a tutti i primari, chiedeteli a chi se ne intende di queste cose, perché sennò noi come siamo riusciti a sapere? Perché veramente io vedo che da solo non sarei mai riuscito a inventarmi una cosa del genere.